allegria che sa addormenti e poi fuggiamo insieme. Sì, porgi. Attenti, pagliaccio è là, tutto stravolto e dal mio cerca esattanto la corra vuole farmi. Verso il fine